Ad Anna Vizzari devo prendere uno scarafaggino piccolino, no, finto. Gli acari ci mettono lo zampino? Ci mettono le zampette forse, gli acari. Poi te ne porti uno scarafaggione. No, esatto. Indistruttibile, più furbi siamo noi. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ebbene sì, a volte capita che qualche addio passi anche dal telefono, cara la mia Nicoletta, e in certe situazioni si pensa di sicuro un po' più al cuore che ai denari. La tariffa e l'operatore passano proprio in secondo piano. Ma io, Deborah, ho imparato da te che la fedeltà non premia e allora bisogna anche con la compagnia telefonica rinegoziare nel caso cambiare. È vero, però bisogna fare anche un po' di attenzione, perché se non si sceglie bene può capitare che poi sia la compagnia stessa a darci il ben servito, purtroppo, e sono diversi i casi delle società telefoniche cosiddette low cost che recentemente hanno messo in difficoltà i clienti. In passato qui proprio a Cuore Denari abbiamo parlato di Bip Mobile, e un'altra vicenda che non sembra destinata ad un lieto fine è quella di Italiacom, un gestore sembra sull'orlo del fallimento che ha lasciato senza linea molti utenti. E non è tutto, molti stanno anche segnalando proprio in questi giorni di essere stati oggetto di prelievi da parte di Italiacom sulla propria carta di credito, cifre che, senti un po', arrivano persino a 400 euro. Tu ti trovi questo addebito e non sai come è stato possibile aver speso questi soldi. Meno male che hanno controllato, ecco, infatti, ecco. Oggi cercheremo di capire, brava, un altro, come dire, un'altra raccomandazione da denari, esattamente, controllate l'estratto conto. Oggi cercheremo di capire qualcosa in più rispetto a questa vicenda. E allora, prima di tutto, 800 24 0024, segnalateci se siete fra gli utenti di Italiacom o se vi è capitato di avere altre disavventure con una compagnia telefonica con cui credevate invece di aver fatto un affare. Se volete, scriveteci anche al 349 238 6666. Ma oggi, Deborah, noi parliamo anche di un altro prelievo che non ha a che fare con i nostri soldi. Parliamo dell'esame del sangue, un esame che permette di ottenere tante informazioni sul nostro stato di salute, dato che dal sangue dipende il funzionamento di tutti gli organi. Quindi, se avete fatto un esame del sangue, però ci sono dei valori sospetti, chiamateci. Se avete invece un disturbo e volete sapere quale tipo di esame del sangue permetterebbe di arrivare alla diagnosi, non esitate a mettervi in contatto con noi, che non ci vogliamo naturalmente sostituire al vostro medico curante, ma vogliamo insieme ai nostri esperti darvi tutte le informazioni necessarie per diventare competenti e quindi riuscire a parlare o comunicare meglio con il vostro medico. Parleremo anche delle nuove frontiere degli esami del sangue. Forse in un prossimo futuro basterà un semplice prelievo per diagnosticare malattie che attualmente richiedono indagini più complesse, come valutare il rischio di infarto, diagnosticare la depressione o la presenza di un tumore al seno. 800 24 0024 se volete parlare quindi anche con noi di emocromo, colesterolo, trigliceridi, ma non solo. Ancora al telefono! Zitto, che con la nuova tariffa di Italiacom non mi costa niente. E poi ti hanno dato anche il tablet oltretutto. Oltretutto! Si dice oltretutto! Oltretutto, internet e chiamate illimitate verso i fissi d'Italia. 19,90 euro al mese per sempre. Chiamalo 02. Ed è così che la compagnia Italiacom si presentava nei mesi scorsi ai suoi utenti potenziali, e non sono stati pochi a farsi stuzzicare da questa proposta di tariffa telefonica low cost. Se anche voi avete scelto una compagnia così, raccontatecelo all'800 24 0024. Diteci come vi trovate, vi auguriamo naturalmente benissimo, ma può capitare che una compagnia che spunta sul mercato improvvisamente non si riveli poi del tutto affidabile. Oggi vi aiutiamo noi perché, tra l'altro, se provando a chiamare un call center per avere informazioni sulle vostre tariffe, sui vostri abbonamenti, magari oggi vi capiterà di non trovare nessuno, visto che tutti gli operatori di call center sono scesi in piazza, stanno scioperando e manifestando a Roma. Ma a parte, come dire, il clima generale tra gli operatori del call center, oggi noi rimaniamo sulle vicende di Italiacom. Andrea Biondi del Sole 24 Ore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, tu ti sei occupato della vicenda per il Sole, ci riassumi brevemente la storia di questa compagnia? In questi mesi abbiamo purtroppo scoperto una possibilità che sembrava abbastanza remota, invece si è rivelata evidentemente realizzabile. Cioè, il consumatore può trovarsi con la linea muta non solo se lui non paga il servizio, ma anche se il suo gestore non paga il fornitore di rete. Nel primo caso la colpa è del consumatore, nel secondo evidentemente no. In estrema sintesi, poi, il senso della vicenda Italia con me è questo. Cioè, stiamo parlando di una compagnia telefonica attiva nel fisso, in verità ci aveva provato anche nel mobile, ma poi ritirandosi subito, è arrivata ad avere 3.000 clienti, qualcosa come 3.000 clienti fra Sicilia e Puglia. Telecom, come previsto dalla regolamentazione, è obbligata a fornire la rete agli operatori che ottengono il via libera da parte delle istituzioni a fare questo servizio. Cosa che ha fatto Italiacom, che si è presentata sul mercato con offerte molto aggressive e anche con un battage pubblicitario notevole. A un certo punto è anche diventato il secondo sponsor sulle maglie del Palermo Calcio. E quindi, insomma, comunque si era messa... Scusa, il primo qual è? Allora, nel 2013, non ricordo, però era il secondo sponsor, era uno dei due, era uno dei due sponsor. Adesso però Marco e Laura adesso ce la facciamo dire dei nostri ascoltatori, perché la domanda l'ho fatta apposta. 800 24 00 24 e Palermitani al 349-238-6666, così ci dicono anche il primo sponsor. Il primo sponsor della maglia del Palermo nel 2013, quindi domanda molto circoscritta. Noi chiederemo poi a Carlo Genta se... Digressione calcistica sulla quale mi sono trovato impreparato, ma diciamo, alla fine, come dire, il discorso, ritornando un po' all'ambito telefonico, diciamo, è che il copione si è iniziato a riempire un po' di difficoltà e di debiti nei confronti di fornitori, come è accaduto appunto con Telecom Italia, verso cui a metà febbraio Italiacom aveva un debito di 1,5 milioni. Da qui ci sono state informative all'Agicom, una prima diffida da parte di Telecom il 21 novembre, una diffida direi ultimativa il 24 gennaio, dopo la quale sarebbero dovuti partire 30 giorni prima del distacco del servizio. Se la cosa non è avvenuta è stata per intervento dell'Agicom, che ha imposto a Telecom di tenere vivo il servizio fino al 1 aprile per permettere di informare i clienti e via dicendo, e anche per permettere di fornire ai clienti codici di migrazione, che sono il lasciapassare che permette di cambiare operatore. Su questo c'è stato un rimparo di responsabilità, fatto sta che codici di migrazione non c'erano, secondo Agicom, che ho sentito in più occasioni, doveva essere Italiacom a generarli. Comunque, alla fine, il risultato finale è che dal 2 aprile le linee dei clienti Italiacom, i cui servizi giravano su rete Telecom, sono mute. Perfetto. Per inadempienza. Da due mesi, quindi, per quanti utenti? 3.000 tra Puglia e Sicilia, dicevi? Sì, più o meno questo è il dato che hai citato. Il ruolo di controllo che esercita l'Agicom, l'autorità garante delle comunicazioni, noi naturalmente li abbiamo interpellati. Buongiorno al dottor Enrico Cutugno, dirigente ufficio controversie e sanzioni della Direzione Tutela Consumatori di Agicom. Buongiorno dottor Cutugni e grazie per la sua partecipazione. Buongiorno e grazie a lei per l'invito. Buongiorno. Allora, come autorità, come avete seguito questa vicenda? Com'è possibile che questi operatori spuntino un po', non dico come funghi, ma insomma ogni tanto qualcuno si affaccia sul mercato, riescano a raccogliere una platea anche non indifferente di nuovi clienti? Insomma, dal vostro punto di vista, come state tenendo sotto controllo questa vicenda, dottor Cutugno? E partiamo dalla premessa: com'è possibile che ciò avvenga? Il sistema attualmente in vigore, in base alle direttive comunitarie, prevede autorizzazione generale. Questo che significa? Che chiunque può inviare una comunicazione al Ministero, dire guarda, io da domani inizio a fare l'operatore di telecomunicazioni, e se nessuno gli scrive sulla base di quello che ci hai prodotto non puoi farlo, lui è abilitato a farlo. Quello che è successo a Italiacom, che ha mandato la comunicazione al Ministero adducendo dei documenti sui quali io non posso entrare, e poi ha cominciato, peraltro violando fin dall'inizio una serie di norme per le quali immediatamente l'abbiamo già sanzionato. Veniamo ad oggi. anche oggi il discorso è sempre lo stesso. L'autorità in questa vicenda è stata veramente, faccio i complimenti al giornalista per la ricostruzione, è stata veramente ineccepibile, perché già appena abbiamo avuto sentore che c'era qualcosa che non andava, siamo intervenuti, abbiamo obbligato Italecom a informare i propri clienti della situazione, a generare i codici di migrazione, ci siamo accorti che non lo stava facendo, per cui ci siamo presi noi carico di generare questi codici, quindi questo lo diciamo subito ai clienti di Italecom. Già ancora adesso, se andate sul sito dell'autorità, potete ricavare da voi stessi il vostro codice di migrazione e quindi andare via, cambiare operatore senza perdere il numero. Qual è il problema? Che se l'autorità è un'autorità amministrativa, quindi interviene, fa degli ordini, se questi ordini non vengono rispettati irroga delle sanzioni, cosa che abbiamo già fatto. Anche la settimana scorsa siamo stati a Palermo per l'ennesima volta in ispezione e abbiamo contestato le ennesime violazioni, solo che appunto trattandosi di violazioni amministrative, se il soggetto non è intenzionato a continuare, non le rispetta. Allora a questo punto, secondo lei, per siccome c'è anche in sospeso la faccenda di questi prelievi fatti sulle carte di credito dei clienti da anche 400 euro, no? Per molti utenti che avevano attivato un abbonamento con questa società, voi non so se avete anche il compito di monitorare questo tipo di aspetto, ma a questo punto anche per le persone che si sono viste fatte questo prelievo, che cosa possono fare? Anche su questo aspetto, noi già su un precedente prelievo di 100 euro fatto quando ancora la situazione era normale, siamo intervenuti con una delibera e abbiamo ordinato a Italecom di restituire quei soldi che aveva preso illegittimamente. Anche sulla storia dei 400 euro noi siamo stati immediatamente avvertiti, perché abbiamo ricevuto in un giorno 40 segnalazioni di utenti che ci segnalavano la stessa cosa. Siamo immediatamente intervenuti andando appunto a Palermo a fare un'ispezione su questa vicenda e abbiamo realizzato che lì a Palermo non c'è più un sistema informatizzato per gestire i clienti, quindi non si capisce questi 400 euro da chi sono stati prelevati in che modo, o meglio sono stati prelevati perché la società ha tuttora i dati delle carte di credito. Ecco, infatti, quindi Andrea Biondi un attimo voleva, mi scusi dottor Cutugno, mi aspetti dottor Cutugno, perché Andrea voleva intervenire sollecitando un altro aspetto. No, e sentivo in sottofondo proprio la cosa che mi interessava, cioè è stata fatta una qualche segnalazione alle autorità competenti di questo? Sicuramente l'autorità ha segnalato a tutte le autorità competenti, cioè, quello che quali? Abbiamo rilevato. Cioè quali? A chi è arrivata la segnalazione? Ma in questo caso non so se posso sbilanciarmi, nel senso che comunque sono fatti sicuramente prendere dei soldi dalle carte di credito. Ecco, allora noi auspichiamo che arrivi a qualche procura della Repubblica qualche segnalazione, dottor Cutugno, non so se voi potete farlo o meno, ma magari forse sarebbe il caso che ci sia un'indagine anche di altro tipo sull'operato di questa azienda. Detto questo, io vorrei capire intanto, Nicoletta, siccome ma tu, se ti arrivasse un volantino pubblicitario con un'offerta di una compagnia telefonica della quale non hai mai sentito parlare, chiaramente se l'offerta è molto allettante il volantino lo leggi, ma ti interessa subito sottoscrivere un abbonamento? No, assolutamente, come tu insegni bisogna andare con molto cauti, e soprattutto io verrei da te e ti direi: Deborah, che faccio? Mi butto o non mi butto? E tu mi diresti: leggi bene, confronta. No, perché poi c'era stato anche il caso precedente di Bitmobile, siccome ogni tanto ce ne sono. Bitmobile, anche già l'altra volta, alcuni poi ascoltatori ci scrivevano, no, Bitmobile, comunque sempre di questa sono. Vogliamo parlare, ne avevamo parlato mi sembra a gennaio, ed è una situazione più o meno analoga. È super giusto. Sì, allora sentiamo un po' le associazioni dei consumatori che cosa ne pensano di tutto questo. Francesco Luongo, vicepresidente nazionale del Movimento Difesa del Cittadino, buongiorno, che ogni volta che abbiamo un inghippo con le telecomunicazioni lo scomodiamo. Buongiorno. Avvocato. Buongiorno, buongiorno a voi, è un piacere essere scomodato, il problema è che quello che è emerso in questa trasmissione è gravissimo, noi in realtà come associazione dei consumatori già lo sapevamo, infatti già nel mese di gennaio, nel pieno dello scandalo Bitmobile, avevamo sollecitato l'autorità su questo fronte, l'autorità si è mossa, l'avvocato Cutugno ci ha spiegato in che termini, però ci troviamo di fronte a una situazione gravissima e che la vostra trasmissione ha il merito di fotografare e rendere attuale. Un operatore di telefonia che sulla base di una sorta di denuncia di inizio attività, chiede l'autorizzazione ad operare ed opera in un certo modo. Voglio dire subito, qui il sistema non funziona nel momento in cui il Ministero dello Sviluppo Economico, in particolare il Dipartimento delle Comunicazioni, quindi quello che era il Ministero delle Comunicazioni, deve immediatamente avviare una istruttoria ed eventualmente sospendere la licenza a un operatore che si comporta certo in questo modo. No, il problema è che poi quando arrivano comunque queste decisioni, avvocato Luongo, di fatto già 3.000 persone sono incappate, hanno accettato questa offerta e si ritrovano improvvisamente senza alcun collegamento telefonico, ma non solo, quello sarebbe il minore dei mali. Ci sono anche queste questioni appunto di questi prelievi da 100, 200, 300, 400 euro dalla carta di credito. Io mi chiedo, quale raccomandazioni possiamo fare ai nostri ascoltatori affinché, qualora spuntasse in un'altra zona d'Italia nei prossimi mesi un'altra compagnia che chiede l'autorizzazione ad operare, va a caccia di clienti, per non far sì che si verifichi un'altra circostanza analoga? Diamo tre raccomandazioni ai nostri ascoltatori. Avvocato, lei faccia un po' proprio il ruolo di consumerista questa mattina. Guardi, allora, fondamentale leggere il contratto. Nel caso di Italiacom abbiamo delle clausole che erano evidentemente vessatorie, prevedendo ad esempio una riserva per quanto riguardava la conciliazione obbligatoria, prevedendo un exit fee, quindi una somma da pagare nel caso di recesso anticipato di 2 anni, una penale vera e propria, che è vietata dalla famosa legge Bersani di cui tanto abbiamo parlato in questo programma. Occhio ai costi di attivazione e soprattutto non scegliere società che, come Italiacom, prendono i soldi di attivazione all'inizio del contratto e comunque non appena si verifica una violazione degli impegni dell'azienda, cioè attiveremo la linea entro 20 giorni, immediatamente reclamare. Ecco, questi sono i consigli fondamentali. La questione poi è importante, nel senso che questi episodi di Bipmobile e Italiacom devono responsabilizzare molto l'autorità e anche le associazioni dei consumatori affinché si intervenga immediatamente con un sistema di allerta rapido che come associazione abbiamo richiesto da tempo e che è fondamentale in questi casi, certo, soprattutto nel momento in cui ci sono le carte di credito di mezzo. Allora, noi stamattina abbiamo parlato, non so Nicoletta se stai vedendo i messaggi, di una questione riguardante questa compagnia piccola operante prevalentemente in 2 regioni d'Italia, al sud Italia. In realtà poi non è che con le grandi compagnie i problemi, la situazione vada meglio, ecco. Ne leggiamo qualcuno? Vogliamo dare subito la parola a Luca, sì, da Milano, che ci racconta una situazione abbastanza simile. Luca, buongiorno. Buongiorno. Sì, siamo tutto qua. Tutto bene? Noi, dire benissimo, abbastanza bene. Certo. No? Sì. Sì, Luca, poi adesso che la sentiamo molto meglio, ci dica. Va bene, allora, a settembre scorso, nello scorso settembre, trovai una tariffa di Vodafone, un'offerta di Vodafone che mi consentiva di sfruttare al meglio un contratto per quanto riguarda le mie esigenze, ovvero di fare chiamate all'estero e quant'altro. Se non che dovevo migrare la parte voce da Tele2 e la parte ADSL da Tiscali. Aveva già un bel affollamento in casa, Luca. Esatto. No? Allora, diciamo che ogni settimana prima mi dicevano: abbiamo scritto sbagliato i codici di accesso. Poi le altre, poi a volte c'è Tiscali che ci blocca. Già lì lei doveva capire un pochino la solfa e dire: signori, vi saluto. Però lei è andato avanti. Fatto sta che tuttora. Quando io chiamo oramai una volta al mese, più o meno, loro mi dicono: ha perfezionato prossima... il contratto, Luca, quindi Luca, venga al sodo. Il nuovo operatore ce l'ha? È operativo o no? Non ce l'ho. Sono ancora con quelli vecchi che comunque hanno... Luca, se vuole, siccome adesso stamattina siamo appunto andati un po' fuori dal seminato, però ci scriva, perché io, guardi, senza alcun problema interpello tutte le compagnie in ballo e vedrà che come si sblocca la situazione, perché poi naturalmente fra un po', avendo citato determinate compagnie, come ben Andrea sa, ci chiamano gli uffici stampa nel pomeriggio e sostengono che non è vero niente, che i passaggi avvengono molto facilmente, probabilmente sono anche... dei casi sporadici, non è la, come dire, la normalità delle situazioni, Andrea, però insomma passare da un operatore ad un altro, soprattutto perché quello vecchio non vuole mollarti, è un'operazione difficile. Sì, diciamo che queste problematiche nel fisso esistono, è inutile a dirsi, esistono un po' per tutti gli operatori, quindi non è questione di Vodafone, non è questione, esatto. È chiaro che dipende anche dalla zona in cui ci si trova, ma insomma le problematiche di passaggio esistono, è chiaro, questo riguarda la telefonia fissa, nel mobile è tutta un'altra situazione, è anche una situazione molto conveniente per i consumatori. La guerra dei prezzi che ha abbattuto i ricavi degli operatori è andata a tutto vantaggio però dei consumatori. Però insomma un po' ce ne fanno pagare le conseguenze, perché poi i passaggi avvengono con difficoltà. Noi avremo i mercati tra poco, però abbiamo Pasquale da Monza, che è uno dei truffati. Gabbati da Italiacom. Pasquale, buongiorno. Deborah sposta addirittura i mercati per lei. Guardi, lei può metterlo nel suo curriculum. Grazie. No, io adesso, siccome vi seguo tutte le mattine, questa mattina ho preso la palla al balzo, quindi io sono uno dei truffati, non ho paura di dirlo perché sono truffato. Questo è, Pasquale, chiamiamo come vanno chiamate le cose, con il loro nome. Io mi sono fatto lettare un attimino dalla pubblicità che faceva il comico Zazames, 19,90 euro al mese. Tutto compreso, io ero già, cioè avevo già il mio gestore e mi trovavo bene era Fastweb, però pagavo qualcosina in più, mi sono fatto appunto allettare e niente, li ho chiamati, mi è costato subito all'inizio 150 euro perché c'era l'attivazione più modem, volevo cambiare il modem, mettere sul mio modem, poi hanno iniziato sulla carta di credito ad addebitarmi 19,90 euro al mese, quindi da aprile dell'anno scorso fino a settembre, senza avere l'opportunità di avere la linea. Mi hanno mandato l'operatore della Telecom, dovevo cambiare i vari contatti tra il mio appartamento, Fastweb e Telecom. Il prelievo simpatico da 400 euro è arrivato, Pasquale? No, quello è il totale di quello che ho speso io, perché sono 150 euro subito col modem. E poi i prelievi mensili. Poi i prelievi mensili di amici credi 20 euro. Il servizio com'è, Pasquale? No, era zero. Zero perché... No. Poi... Ma che storia triste ci racconta Pasquale. Mamma mia, Pasquale. Allora, e adesso? Andiamo ai mercati, guarda, tanto ormai abbiamo sentito bene e commenteremo col dottor Cutugno questa situazione, anche con l'Associazione dei Consumatori, continueremo con Andrea Biondi. E andiamo intanto a sentire un po', tra l'altro oggi, se proprio ve lo devo dire, vi anticipo già che Telecom Italia è il miglior titolo di Piazza Affari, ma ve lo racconto fra qualche istante. Cuore e denari. Prego, s'accomodi. Tamburini molto lieto, prego. Le sue analisi per favore, grazie. Molto gentile. Bellissime. Stupende. Azotemia magnifica, glicemia eccezionale, colesterolo delicatissimo, trigliceridi fantastici, urine meravigliose, complimenti. Grazie. Prego. E siamo tornati insieme a Cuore Denari, parliamo di prelievi effettuati da compagnie telefoniche con cui avevamo stipulato un contratto e ci sembravano così convenienti e affidabili, ma poi siamo stati fregati come il nostro amico Pasquale di Monza. Ma parliamo anche di prelievi di esame del sangue che il nostro medico può prescrivere per arrivare a spiegare l'origine di alcune situazioni di malessere, come ad esempio la stanchezza fisica e mentale che colpisce molti di noi in questo periodo, per controllare i livelli di colesterolo, fattore di rischio per la salute cardiovascolare, o per misurare la glicemia, avere un quadro degli ormoni tiroidei, solo per citarne alcune. Ma oggi avremo occasione anche di parlare del test del respiro, che permette di diagnosticare senza alcun prelievo, senza utilizzare gli aghi che ad alcuni fanno paura, alcune intolleranze come quella al lattosio, di scovare un ospite indesiderato come l'Helicobacter pylori, responsabile di ulcera gastrica e di gastrite, scoperto da, ve lo ricordate, Barry Murray Marshall e Robin Warren, che grazie proprio a questa innovativa scoperta hanno vinto il Nobel nel 2005, quindi un batterio da Nobel. Ne parliamo tra poco, a partire nella seconda parte della trasmissione. Stiamo comodi, voi intanto iniziate a chiamare, intanto parliamo di un prelievo che tocca invece i nostri denari, il nostro portafoglio, direttamente dalla carta di credito, quindi meglio sempre controllare. Deborah, adesso vado a vedere anche il mio estrattino. Non mi è mai capitato, però chissà che a qualche offerta telefonica tu abbia detto sì. No, ma io sono certa che tu non sei caduta in questi tranelli, però insomma qualche volta capita anche a quelli che si ritengono tanto furbi come noi. Detto questo, insomma, a proposito di prelievi, stiamo parlando di coloro che hanno notato questo prelievo fatto sulla propria carta di credito a pagamento del servizio di Italiacom, ma in realtà, tra l'altro, Andrea Biondi, questo servizio telefonico ha mai funzionato o no? Qualcuno è riuscito a telefonare con Italiacom o no? Ma io ho trovato in rete anche dei commenti positivi, devo essere onesto. Quindi cioè, dei commenti positivi sia per il servizio sia per la velocità, accompagnati a tanti commenti negativi. Commenti negativi appunto di chi non riusciva a vedersi acceso il servizio, di chi lamentava dei prelievi senza avere ancora accesso al servizio. E poi alla fine comunque se dopo un anno ci troviamo a parlare di questa situazione, evidentemente qualche caso sporadico non può. Abbiamo ricostruito anche come la Agcom abbia vigilato su tutta la questione, facendo tutto quello che doveva fare, sanzionando anche la compagnia. Ma avvocato Cutugno, le chiedo, secondo lei le persone che hanno visto questi prelievi a tradimento dal proprio conto corrente, dalla propria carta di credito, a fronte invece di un servizio che non era un servizio ma un disservizio, riusciranno a recuperare qualcosa? Beh, questo ovviamente lo spero, e dipenderà anche dalle azioni che però spettano altre autorità, prima di tutte quella giudiziaria. Io il consiglio che do fermamente a tutti gli ex clienti di Telecom è di scaricare le carte prepagate, se hanno fornito i dati di una carta prepagata, e di bloccare il read delle carte invece non prepagate, perché come vi dicevo, da quello che noi abbiamo trovato, il sistema di gestione dei clienti non esiste più, quindi non si sa questi dati adesso chi li stia gestendo. Ecco perché vi dicevo, siamo usciti un po' da fuori dalla sfera di competenza di questa autorità, e quindi il consiglio proprio che do dal punto di vista del consumatore: evitate per il futuro che possono fare altri prelievi, per il passato reclamate sicuramente, ma al gestore della carta di credito, alla banca, e fate denuncia, perché la truffa, ricordiamolo, è perseguibile a querela di parte. Alessandro da Latina, buongiorno. Un altro caso con altre compagnie, sempre a testimoniare un po' le difficoltà di effettuare questi passaggi quando troviamo una buona offerta sul mercato. Insomma, il vecchio operatore ci trattiene e ci lascia andare, non ci vuole lasciare andare. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a lei. Io ho fatto con la British Telecom un contratto nell'ottobre dello scorso anno. Tutto apposta, abbiamo fatto tutte le carte come volevano loro. Poi mi hanno dato la linea gli ultimi due giorni di ottobre. Mi hanno fatto pagare per intero l'importo di un mese della telefonata. Vabbè, telefonato, mi ha detto che poi mi avrebbero fatto recuperare perché saltavano due mesi che ancora non se ne vede niente. Poi a gennaio, per errore, siccome hanno il RID, è un'azienda, hanno il RID, io non sapendo cosa fare perché dovevo ancora pagare, ho fatto un bonifico per pagare una fattura. Contestualmente mi hanno ritirato anche il RID, al che ho telefonato. E mi hanno detto sì, lo vedevano, però ci sarebbe stato il rimborso. E ancora nonostante altre telefonate, nonostante la raccomandata, a tutt'oggi devo avere il rimborso. Allora, che tra l'altro, Alessandro, non è che sarebbe tanto difficile da fare, basterebbe semplicemente annullare un paio di bollette. Avvocato Luongo, quanto è difficile fare questi rimborsi da parte delle compagnie telefoniche che si trattengono invece queste somme, prese un po', ribadisco, qualche volta a tradimento, per poi per ristornarle, però è sempre tutto complicato. Avvocato? Prima di rispondere all'ascoltatore, voglio sottolineare che l'autorità per le garanzie delle comunicazioni ci ha comunicato oggi che il database dei clienti di Italiacom non si sa più chi lo gestisce, quindi con i dati personali, i dati delle carte di credito. Questa cosa comporterà naturalmente che la nostra associazione farà immediatamente un esposto alla Procura della Repubblica competente per capire i dati personali e i dati delle carte di credito, oltre che i prelievi che sono stati effettuati, come accertato dall'autorità, chi ha preso questi soldi. Tornando al nostro ascoltatore e rispondendo all'ascoltatore, il figlio dell'avvocato come si accorge subito della portata delle notizie? Esatto. E di come può naturalmente utilizzarle poi a beneficio dei consumatori. Grazie avvocato. Quindi poi come rispondiamo all'ascoltatore che invece non riesce a tornare in possesso di questa somma pagata due volte? Allora, innanzitutto il reclamo che diciamo è stato già fatto, per cui può attivare la conciliazione presso il Corecom allegando copia dei bonifici, copia delle fatture, copia del reclamo, chiedendo i soldi. Lo può fare al Corecom regionale, lo può fare presso la Camera di Commercio, la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio della sua provincia, presso un organismo di mediazione. Non c'è conciliazione paritetica al momento con questa società. Deve attivarsi. Se non ha possibilità di farlo, si rechi a un'associazione dei consumatori che seguirà tutta la pratica. Allora, sì, avevamo anche Michele da Teramo. Sì. Sì, abbiamo Michele da Teramo da ascoltare dopo magari le informazioni sul traffico. Volevo solamente leggervi ad Andrea, soprattutto Biondi, un messaggio di Sandro che ci scrive: concordo che la fidelizzazione non paga, ma per paura degli inconvenienti che state elencando preferisco restare dove sono. È vero, magari uno paga un po' di più, però piuttosto che imbarcarsi in un cambio, perché non se ne viene più fuori. Ci pensa 12.000 volte. Invece io ne leggo un altro di Stefano che dice: esiste una sintesi da qualche parte per documentarsi su tutte queste vicende? Allora, intanto sicuramente Andrea Biondi si impegna a farla. Io direi che già c'è, che basta già c'è. Andare sul sito del Sole 24 Ore, la ripropone. Ci sono copiosi articoli sulla vicenda. Sulla vicenda, ma anche su altri vecchi, BIM Mobile, insomma, e altre impasse. Sicuramente se cerca magari nelle sezioni telecomunicazioni delle associazioni dei consumatori ne trova, Stefano, quindi guardi, la rete oggi offre grandi opportunità. Segnalo anche, scusami Deborah, una pagina Facebook Fregati di Italiacom. Vabbè, quella fantastica. Che devo dirti che ieri Marco Lombardo, il nostro assistente, appunto, è andato anche a curiosare tra questo gruppo. Però bisogna sempre fare attenzione, perché su queste pagine possono esserci delle cose non vere, quindi prendere sempre col beneficio dell'inventario. Allora, 11.45. Cuore e denari. Stiamo questo microfono nuovo, mannaggia, ci gabba sempre. Stiamo concludendo la parte di Cuore Denari dedicata alle vicende di Italiacom, questa compagnia telefonica un po' meteora sul mercato, che ha convinto però almeno 3.000 clienti a sottoscrivere un abbonamento molto conveniente. Adesso sembra essere scomparsa dal mercato, lasciando in braghe di tela e senza collegamento telefonico tutte queste persone. L'occasione è stata buona naturalmente per molti ascoltatori anche per raccontarci le loro difficoltà, non appena trovano una buona offerta sul mercato, a sottoscrivere un abbonamento nuovo, un po' perché le vecchie società non lasciano andare via facilmente i clienti, un po' perché molto spesso anche le nuove compagnie, pur avendo offerte molto interessanti, in realtà poi una volta che il contratto è partito l'offerta nuova non viene rispettata alla lettera. Era quello che voleva raccontarci Michele, che adesso, di cui abbiamo perso il collegamento telefonico, ci voleva raccontare le sue vicende con Vodafone. Ma insomma, per concludere, Andrea Biondi, qualche ultima raccomandazione ai nostri ascoltatori, un po' sulla linea di quello che ha fatto anche l'avvocato Luongo del Movimento Difesa del Cittadino prima, da, come dire, osservatore giornalistico. Certo, no, assolutamente è importante e fondamentale fare attenzione e mantenere, come dire, un certo distacco rispetto a delle offerte che ci appaiono troppo competitive, stare attenti ai costi di attivazione, stare attenti, diciamo, ai prelievi su carte di credito e via dicendo, tenendo in considerazione che il settore delle telecomunicazioni è un settore già di per sé estremamente estremamente aggressivo. Le nuove compagnie che si mettono sul mercato, che si pongono sul mercato, bisogna stare attenti, perché effettivamente non ci sono, abbiamo capito che non ci sono degli obblighi, non ci sono dei controlli stringentissimi insomma, e riuscitissimi, almeno da queste due vicende che abbiamo visto in questi due mesi insomma. Quindi, nonostante magari gli operatori tradizionali abbiano delle difficoltà, fare attenzione, insomma, che bene o male qualche cosa insomma può succedere se si va in terreni sconosciuti. Infatti, senti Andrea, diffidare da? Dimmi due cose che ti saltano all'occhio subito nella proposta che può farci una... Diffidare da chi richiede nel fisso dei costi di attivazione troppo alti, come in questo caso. 150 euro. 150 come euro. Potrebbero arrivare a 40, 30, 20, 80. Avvocato quanto? Longo, qual è una corretta misura? Perché troppo misura... alti per me sono, possono essere anche alti 40 euro, però se poi il mercato è però quello... Però credo che, poi do la parola, credo che al di là di tutto sia importante, come dire, informarsi prima, informarsi bene. Ci sono i metodi per potersi informare, diciamo. Lo sai che molto spesso queste compagnie telefoniche fanno breccia magari nelle persone anziane, che sono sole, che sono comunque assolutamente autonome, autosufficienti, ma che Col non hanno che la... Non dimentichiamo le responsabilità delle istituzioni, perché voglio dire, Italiacom ha avuto un battage pubblicitario sulle reti TV nazionali, ha avuto la possibilità di avere il suo servizio, eccetera, eccetera. Poi dopo alla fine si arriva a un anno, a poco più di un anno, si arriva a parlare di situazioni così. E certo. Avvocato Longo, concludiamo, auspichiamo una totale apertura del mercato, la presenza di tanti operatori che siano naturalmente concorrenziali, poi si finisce come si finisce, come abbiamo raccontato questa mattina. Ultima battuta anche da parte sua. Sì, potenziare i controlli a monte, non è detto che la denuncia d'inizio attività o la semplice autorizzazione non possa essere oggetto di verifica da parte del Ministero. Il Ministero in questo caso deve muoversi e lo deve fare presto. I consumatori non devono farsi sedurre e soprattutto devono essere attenti a caricare sulla propria carta di credito costi da soggetti che non sono o che non risultino affidabili. Nel momento in cui verificano degli addebiti che non li convincono, sospendere i RID, fare un reclamo direttamente tramite un'associazione di consumatori, perché una volta presi questi soldi è poi molto molto difficile riaverli indietro. Intanto, a parte la sospensione delle RID, le dico anche che c'è qualche ascoltatore che ci racconta che ha preso delle iniziative molto più drastiche, addirittura chiusura di conto corrente e carta di credito, perché la compagnia, nonostante la disdetta del contratto, continua ad accreditare le bollette. Insomma, quindi attenzione, fate tutti il vostro, facciamo tutti un po' il nostro dovere di consumatori. Grazie Avvocato Longo. A voi buona giornata. Buona giornata. Grazie Andrea. A voi. Buona giornata e buon lavoro. Torna presto. Buon lavoro e buona giornata. Fa più male un prelievo sulla carta di credito a tradimento o un prelievo del sangue? 800 24 0024, schieratevi. Vorrei che fossi sincero. In che stato mi ritrovo? Tutto sommato direi che sei in buone condizioni. Ok. Ma dai tuoi esami del sangue sono risultate un paio di cose che non mi piacciono per niente. So di che cosa si tratta. Il mio tasso di colesterolo è salito a livelli alti. Esatto. E per questo motivo ho chiesto di fare anche un esame dei lipidi. Cliff, hai i trigliceridi a 350, l'IDL è 160 e l'HDL è 40. Sì, ho un po' esagerato. Un po' troppo esagerato. Beh, solo nei weekend. Eccoci qui, solo nei weekend, c'è gente che esagera nel weekend e infatti l'esame gli esami del sangue evita di farli il lunedì. 800 24 0024, se volete parlare di un altro tipo di prelievo che non mette in crisi i nostri denari ma che al contrario aiuta il medico curante ad avere un quadro della nostra salute, se avete fatto di recente esami del sangue, se dovete farli, se invece non li avete fatti da tantissimo tempo, restate con noi. Oggi in linea abbiamo il piacere di avere il dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia. Buongiorno dottor Gargiulo. Buongiorno Nicoletta e buongiorno Deborah. Buongiorno. Ben trovate, sempre un piacere. Grazie. Dottor Gargiulo, gli esami del sangue sono un po' la sfera di cristallo del medico, o sbaglio? Ma più che la sfera di cristallo del medico, io direi che sono l'estratto conto della nostra salute, per rimanere in tema con quello che avete appena detto, perché sono quello che ci fa vedere esattamente che cosa succede alla nostra salute e che cosa dobbiamo fare per migliorare eventualmente lo stile di vita, per poter mantenere uno stile di vita buono e soprattutto per prevenire una serie di malattie. Esami che ci fanno vedere la quantità di zucchero nel sangue, la quantità di grassi all'interno del nostro sangue, ci fanno vedere lo stato di salute del fegato o del rene, insomma ci possono dire molte cose estremamente interessanti. Emocromo, colesterolo, trigliceridi, dosaggio degli ormoni tiroidei, di tiroide abbiamo parlato di recente in occasione della giornata mondiale tutta dedicata a questa ghiandoletta a tutto fare, glicemia non voglio dimenticare, insomma cito solamente gli indici più significativi che vengono controllati. Dottor Gargiulo, possiamo dire esami del sangue di routine, o meglio orientativi, ogni quanto è necessario fare un controllo e in presenza di quali sintomi lei li prescrive? Allora, facciamo un importante distinguo fra esami del sangue diagnostici ed esami del sangue preventivi per capire lo stato di salute. Gli esami del sangue diagnostici sono quelli che vengono fatti in presenza di sintomi o nel sospetto di una malattia, ad esempio una febbre molto elevata, facciamo un emocromo, ad esempio nel dubbio di un'insufficienza renale andiamo a controllare l'azotemia, la creatinina, ancora se abbiamo il sospetto che la persona abbia un'insufficienza pancreatica andiamo a controllare il pancreas, il fegato per l'epatite, e qui servono come diagnosi, quindi quelli vengono fatti ogni volta che il medico sospetta una malattia. Poi ci sono quelli preventivi, cioè quelli che servono per valutare lo stato di salute ed evitare che alterazioni della glicemia, ad esempio, del colesterolo, come abbiamo sentito prima, o stesso del fegato in altre situazioni, possano provocare dei danni al nostro organismo e quindi diventare essi stessi delle malattie. Questi esami, gli esami preventivi, mediamente si fanno una volta l'anno in condizioni normali nei soggetti dai 20 anni in su. Abbiamo abbassato un po' l'età perché cominciamo a controllare un po' prima i nostri pazienti. Allora, ai nostri ascoltatori, Deborah, chiediamo se hanno fatto di recente gli esami del sangue, se magari c'è qualche valore un po' sballato, oppure hanno ricevuto una diagnosi di anemia, oppure hanno scoperto di avere il colesterolo buono un po' bassetto, oppure i trigliceridi fuori norma, oppure il valore della glicemia in una zona grigia. 800 24 00 24, chiamateci perché valuteremo insieme se la correzione dello stile di vita può bastare da sola a rimettervi in sesto, ma credo che questa possa essere anche una buona occasione per chiarirci un po' le idee, toglierci eventuali timori. Ci sono persone, Deborah, che appena vedono i referti su un asterischetto vanno subito in ansia, non si accorgono magari che il valore è fuori norma proprio di un pelino. Esatto, che possiamo magari anche sistemarlo solo con un po' di buone nuove abitudini, no, personali. E ce le faremo suggerire, certo, dal dottor Gargiulo, che invitiamo a sentire con noi il nostro GR e tornare insieme subito dopo con le telefonate dei nostri ascoltatori. A tra poco. Cuore e denari. Siamo tornati e torniamo subito perché il tempo scappa via e noi oggi vogliamo parlare col dottor Carlo Gargiulo, che è in linea con noi, di esami del sangue. Non vogliamo caldeggiare la lettura fai da te degli esami, perché spetta al medico capire e interpretare gli esami del laboratorio, ma vogliamo recuperare le informazioni di base per discuterne con il nostro medico. Allora, cerchiamo di dare un occhio alle varie diciture, anche agli asterischi. Se avete dei dubbi, dottor Gargiulo, arrivano tanti dubbi sul colesterolo, che si fa in tre, quindi ci sono tre valori, e molti ascoltatori mi scrivono: non ci capisco più nulla. Iniziamo dal colesterolo e poi continuiamo a dare delle indicazioni: si fanno a digiuno oppure si può mangiare qualche cosa, sempre nello stesso laboratorio è meglio cambiare, perché vorrei parlare anche di un prelievo che non richiede gli aghetti ma basta un soffio, il test del respiro. Dottor Gargiulo. Allora, mettiamo ordine. Colesterolo, sono tre i tipi di colesterolo che noi vediamo e analizziamo: colesterolo totale, colesterolo HDL, cosiddetto colesterolo buono, e colesterolo LDL o colesterolo cattivo. Questi tre valori devono essere al di sotto o al di sopra di certi parametri. Allora, il colesterolo totale deve essere al di sotto di 200 mg per decilitro, il colesterolo HDL deve essere al di sopra di 45 grosso modo, ma tra uomo e donna cambia leggermente, il colesterolo LDL deve essere rapportato agli altri due, cioè non possiamo dare un dato preciso dell'LDL al di sotto di una certa cifra perché dobbiamo regolarci sempre con gli altri due. Nel soggetto normale questi sono i valori giusti, se c'è presenza di diabete, se c'è ipertensione, se ci sono altri fattori di rischio, ovviamente i valori si spostano, ma lì il medico deve intervenire lui per darci un'occhiata meglio. Cambiare laboratorio per un'analisi rispetto ad un'altra non è utile. Io consiglio di farli sempre nello stesso laboratorio, perché in realtà il laboratorio di fiducia ci dà sicuramente una risposta di cui noi siamo più tranquilli e più sicuri. Un consiglio soltanto: se viene alterato un esame, molto alterato, magari ripeterlo potrebbe essere utile, perché come in tutte le attività umane c'è un minimo di rischio di errore che può essere fatto. Ancora gli asterischi, attenzione a valutarli, perché dovete sempre guardare i valori normali, che possono cambiare da un laboratorio all'altro o addirittura nello stesso laboratorio da un esame all'altro, perché dipendono dai kit che vengono utilizzati, dai reagenti utilizzati, quindi può cambiare e questi li dobbiamo guardare. Per alcuni velocemente i parametri sono sempre gli stessi: glicemia inferiore a 110, colesterolo come abbiamo detto inferiore a 200, trigliceridi inferiore a 160. Questo non cambia da laboratorio all'altro. Dottor Gargiulo, quando io Gianni Coletta ride, quando devo fare l'analisi, naturalmente la sera precedente evito la cena con gli amici, e c'è però chi addirittura adotta una strategia più drastica di mettersi a dieta per qualche giorno nella speranza naturalmente che poi sia, dal punto di vista dell'analisi, illibato, no? Vale questa strategia? Ci si presenta allora, in laboratorio un po' più ripuliti, diciamo così? È un piccolo trucco che però non consigliamo a nessuno, nel senso che va bene non fare la cena con gli amici la sera prima, perché sarebbe un parametro alterato. Io non credo che vada a cena fuori tutte le sere o mangi abbondantemente tutte le sere, quindi quel parametro verrebbe alterato. Ma verrebbe altrettanto alterato un parametro dove per una settimana lei fa una vita, ha uno stile di vita perfetto e poi gli altri 350 giorni dell'anno non ce l'ha, quindi anche lì sarebbe una forzatura che non è assolutamente il caso di seguire. Dobbiamo avere il nostro stile di vita normale, fare gli esami, magari evitando di farli subito dopo le feste di Natale o subito dopo le direi. Ma in linea di massima, in un periodo normale della nostra vita in cui facciamo un'alimentazione normale. La sera prima una cena o forse un po' più leggera può essere utile, però non dimentichiamoci che se la glicemia è influenzata dalla cena della sera prima, colesterolo e trigliceridi ahimè no, quindi è inutile che speriamo che si abbassi. Ecco, quindi è inutile fare sacrifici, dottor Gargiulo. Allora, abbiamo tantissimi ascoltatori, 800 24 00 24, vorremmo far parlare loro per dare al modo al dottor Gargiulo il loro referto delle ultime analisi. Parli il referto. Luigi da Bari, poi saliamo, andiamo. Luigi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a voi stessi. Dunque, io sono un medico. Sì. E quindi per professione consiglio ai miei pazienti di fare il pap test, mammografia, eccetera, e naturalmente devo dare l'esempio. Certo. Questo prelievo che ho fatto, in qualche modo credo, per il fatto di farlo abbastanza regolarmente, credo, spero, mi abbia in qualche modo salvato, perché nel gennaio scorso ho fatto un prelievo del PSA. Sì. Sarebbe l'antigene prostatico specifico per depistare eventualmente tumori della prostata. Sì. Oltre ad altre malattie, ma essenzialmente questo. Purtroppo era leggermente aumentato, la soglia è 4, era 5,4. Il mio collega urologo mi ha consigliato una terapia pensando che si trattasse di un fatto, come dire, transitorio. Dopo un mese di terapia ho rifatto e il tasso era aumentato a 5,9, quindi mi ha fatto la biopsia ed è venuto fuori, purtroppo, un adenocarcinoma della prostata, in parole povere un cancro della prostata, però era in uno stadio, come dire, abbastanza iniziale, perché la capsula non era toccata, il RL, le vescicole seminali, linfonodi, niente. Quindi, grazie a questo prelievo, che faccio abbastanza regolarmente, ho avuto la possibilità di fare immediatamente una terapia. Io l'ho fatta in Francia perché abito lì abitualmente e quindi mi sono trovato in un centro specifico che consiste nell'inserire all'interno della prostata. Naturalmente mi hanno sconsigliato di fare la prostatectomia perché sì, non era l'intervento radicale, giusto? E quindi mi hanno inserito qualche decina di frammenti di iodio radioattivo nella prostata e dovrebbe essere sufficiente questo, mi hanno detto, perché chiaramente l'azione, si tratta di irradiazioni ma di durata limitata perché l'effetto dura 2 mesi. Sì. E mi hanno detto, e questa è la notizia, spero per me, buona, che il tasso di guarigione con questo tipo di trattamento dovrebbe essere il 95-96%. Quindi l'augurio che mi faccio. No, Luigi, anche noi tifiamo per lei e soprattutto io la ringrazio di averci chiamato, di aver raccontato questa sua esperienza che sottolinea ancora una volta come intervenire precocemente può fare, come nel caso di Luigi, davvero la differenza. Dottor Gargiulo? Diciamo che per una volta il ciabattino non è andato con le scarpe rotte, quindi merito al collega che ha fatto le cose che doveva fare esattamente, dà il buon esempio e questa è un'altra cosa molto importante, perché io credo che ognuno di noi debba poter dare un buon esempio ai suoi pazienti iniziando lui stesso a fare per primo i controlli. Quindi un in bocca al lupo fortissimo al collega e a tutti coloro che fanno la prevenzione. Andiamo, dove andiamo, Deborah? Da Marilla, con questo nome non vogliamo andare a Modena. Marilla, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno e vi ascolto sempre. Grazie. Dunque, io invece porto purtroppo un esempio diverso da quello che mi ha preceduta, cioè io sono stata operata al seno 16 anni fa, ho fatto tutte le cure del caso, quindi chemioterapia, radioterapia e controlli periodici, sono stata seguita dall'Istituto Oncologico di Modena per 10 anni, quindi controlli periodici di ecografia al seno, analisi del analisi i marcatori tumorali, radiografia ai polmoni per vedere se c'erano metastasi, eccetera. Questo per 12 anni. Sì. Dopo 12 anni i marcatori sempre perfetti, mai avuto una lievissima modifica, eccetera. Però? Quindi però mi sono trovata che a dicembre mi si è gonfiato il braccio dove 16 anni fa ero stata operata, da lì l'oncologa non c'era niente, palpazioni, mammografie, esami del sangue, la ricerca dei marcatori, eccetera. Praticamente era talmente profondo sotto l'ascella che non si sentiva né al tatto, non si vedeva né con la mammografia, non si evidenziava dai marcatori tumorali, al che quindi la domanda, Marilla, è cosa serve? Cosa servono i marcatori tumorali? Capisco se l'oncologa alla palpazione non sente, perché non è nel seno, pur essendo di origine. Quindi la sua domanda precisa è servono e a che cosa servono i marcatori tumorali? E questa domanda noi la vogliamo girare subito alla dottoressa Maria Giovanna Luini, scrittrice e medico, soprattutto e comunicatore scientifico all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Buongiorno dottoressa Luini. Buongiorno a tutti, ho ascoltato la domanda e anche il rammarico della signora. In effetti i marcatori tumorali da soli non hanno il potere di diagnosticare né un tumore primitivo, cioè la sua prima comparsa, né una recidiva, una ripresa di malattia in qualunque parte del corpo, chiedo scusa, almeno se parliamo di tumore al seno. Sì. Gli attuali marcatori tumorali sono molto importanti, inseriti in un protocollo di controlli che preveda altri esami, preveda le visite, preveda l'attenzione dei medici a come sta la persona. Quindi da soli i marcatori tumorali odierni, soprattutto nel tumore al seno, non hanno questo potere che psicologicamente viene vissuto anche a volte un po' come una condanna o un terrore da parte dei pazienti, cioè vedono la malattia ma non così spesso. Per esempio, quando c'è il tumore al seno il giorno prima dell'intervento, il marcatore tumorale CA15-3 è quasi sempre normale, cioè non lo vede. Quindi i marcatori sono importanti ma vanno inseriti in un contesto, insieme agli altri esami. Dottoressa Luini, torneremo poi a parlare con lei del futuro degli esami del sangue, che cosa possiamo aspettarci da questo prelievo così importante, che il dottor Gargiulo gli ha paragonato gli esami del sangue un po' a una sorta di conto corrente, vero? Saldo, un saldo, estratto conto del nostro, della nostra salute. Vogliamo anche, dottor Gargiulo, rispondere agli ascoltatori che ci chiedono se si va sempre a digiuno per fare l'esame del sangue, oppure se si può bere un caffè, mangiarsi un biscottino. Dottor Gargiulo, direi senz'altro digiuno è la cosa migliore, siamo più tranquilli. Non tutti gli esami sono sensibili al fatto che si possa mangiare, però siccome potrebbero essere alterati, noi consigliamo sempre comunque il digiuno, fatto salvo alcune situazioni di urgenza dove bisogna fare un prelievo d'urgenza, allora il discorso cambia, però con gli esami di routine è meglio fare il digiuno. Intanto che i nostri amici vanno a prendersi il refertino, io vorrei anticipare e dare delle indicazioni riguardo al test del respiro, che permette di individuare intolleranze alimentari come il lattosio o scovare l'Helicobacter pylori. Dottor Gargiulo, quali indicazioni? Abbiamo dato delle indicazioni per gli esami del sangue, ogni quanto sarebbe bene farli, abbiamo diviso da quelle preventive a quelle di controllo, a digiuno. Per il test del respiro, quali indicazioni vogliamo dare? Allora, i due test sono ovviamente diversi, partiamo dall'Helicobacter. Il test per l'Helicobacter deve essere fatto con un'astensione di almeno 15 giorni da inibitori della pompa protonica, quei farmaci che vengono utilizzati, lansoprazolo, pantoprazolo e omeprazolo, che vengono utilizzati per l'acidità gastrica, devono essere interrotti 15 giorni prima dell'esame, come deve essere interrotta qualsiasi terapia antibiotica, perché chiaramente potrebbe influire. L'esame si fa a digiuno al mattino, si va nel laboratorio, si assume una soluzione, un bicchierino di una soluzione e poi si respira all'interno di una provetta. Un esame molto semplice che però ci indica la presenza dell'Helicobacter pylori, che è un batterio che ormai sappiamo essere responsabile dell'ulcera gastrica e soprattutto responsabile di un'ulcera che può trasformarsi in un cancro dello stomaco. Quindi è un esame che non solo ci aiuta a guarire dall'ulcera gastrica, a fare delle cure giuste, ma ci aiuta a prevenire il tumore dello stomaco. L'intolleranza al lattosio invece è un test che si fa sempre con il respiro, anche lì assumendo una soluzione a digiuno, e però per fare l'intolleranza al lattosio bisogna seguire una regola un po' più lunga, nel senso che nel mese precedente non bisogna assumere lassativi, non bisogna assumere fermenti lattici, non bisogna assumere antibiotici intestinali e nella settimana precedente è consigliabile non assumere latte e latticini. In questo modo noi teniamo la flora batterica intestinale giusta, perché se non fosse giusta potrebbe venire un falso negativo, cioè dire non sei intollerante al lattosio quando in realtà il paziente lo è e la sua flora batterica ci ha creato qualche problema. Anche qui è un esame che si fa a digiuno, un esame veloce e facile da eseguire e soprattutto sono esami che non invasivi ci consentono di fare delle interessanti diagnosi. Ce n'è anche un terzo che è quello del lattulosio, che riguarda la contaminazione batterica del tenue. Sembra una cosa difficile, in realtà è responsabile questa contaminazione spesso di diarrea, di malassorbimento, di fastidi intestinali. Quindi il respiro con il test del respiro teniamo sotto controllo la pancia, più o meno, vero? Ecco, respiro e pancia, e d'altra parte. E non restiamo col fiato sospeso. E non... Dottor Gargiulo. È troppo forte. Dottor Gargiulo, è la donna di Denari che le parla e io adesso mi faccio portavoce di un domandone che in questo momento si stanno facendo molte delle signore in età fertile che ci seguono da casa, ma soprattutto che ci stanno facendo le nostre amiche del centralino, quindi Rosa, Sabrina, Nicole e tutte le altre. Queste analisi del sangue le dobbiamo fare prima o dopo il ciclo? Allora, conviene farle dopo il ciclo, qualche giorno dopo il ciclo, non immediatamente a ridosso, perché ad esempio l'emocromo potrebbe venire un po' alterato da un ciclo abbondante, per cui potrebbero esserci delle piccole variazioni legate anche ai movimenti di temperatura. Insomma, io direi una settimana dopo la fine del ciclo siamo tranquillissimi. Ottimo. Che è un esame abbastanza, ancora più sicuro. Chiaro e conciso. E a proposito di esami, le nostre amiche del centralino. Certo, a proposito di esami del sangue, dottoressa Luini, con lei andiamo nel futuro, in un futuro prossimo, e forse abbiamo già un piedino in questo futuro a proposito degli esami del sangue. Sì, esistono esami del sangue che nel prossimo futuro, quindi in un futuro vicino, potranno dirci per esempio chi rischia di più di avere una depressione o chi rischia di più di avere un infarto o un evento al cuore cardiovascolare che possa mettere in pericolo la vita, o per andare ai tumori chi rischia di più di avere un tumore al seno. Addirittura ci potranno essere diagnosi di malattia, quindi noi ci aspettiamo che nel futuro alcuni tumori possano essere diagnosticati non più con gli esami strumentali ma con un esame del sangue che cerca nel sangue alternativamente un pezzo del DNA o RNA oppure alcune sostanze prodotte dalle cellule tumorali. Quindi esistono esami del sangue che a partire dal presente e sempre più nel futuro potranno sostituire esami che oggi invece magari sono più costosi, costano di più alla persona, alle famiglie ma anche al sistema sanitario, con esami del sangue che invece costano meno, sono anche meno, psicologicamente meno pesanti per la gente. Dicevamo proprio una settimana fa alla celebrazione del ventennale dello IEO che il futuro dovrebbe essere di esami del sangue che alleggeriscano il peso economico e psicologico per la gente nella diagnosi precoce, per esempio cercando il tumore polmonare solo con l'esame del sangue o il tumore al seno solo con l'esame del sangue. Si tratta quindi di esami del sangue che potranno veramente fare prevenzione nella popolazione. Pensiamo all'infarto, l'infarto è un problema molto grosso per la popolazione maschile e femminile. Se un esame del sangue è capace di dirci se noi rischiamo molto di più rispetto a un'altra persona di avere l'infarto, applicheremo quelle regole di stile di vita e anche quei controlli adeguati capaci di ridurre questo nostro rischio. Quindi gli esami del sangue saranno un po' la nostra carta d'identità e ci aiuteranno. Vedi, li abbiamo definiti in esatto. tanti modi. Allo IEO sono davvero molto cuore e denario, pensato. Molto cuore e denari, la dottoressa Luini e anche il dottor Gargiulo sono cuore e denari. Li inviteremo, dottor Gargiulo, un ascoltatore ci sta mandando messaggi sulla lipoproteina di cui nessuno parla, ma noi ne parleremo, dottor Gargiulo, adesso abbiamo 30 secondi. E allora ne riparleremo sicuramente. Le lipoproteine sono quelle proteine che trasportano i grassi all'interno del nostro sangue e quindi sono particolarmente interessanti e importanti. Allora, alla prossima, grazie alla dottoressa Luini per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie al dottor Carlo Gargiulo. Grazie agli ascoltatori. A Marco Lombardo, a Laura Vanossi, a Camilla Tomadina, a Gianmarco Ferronato e tutti quanti. Che le ragazze al centro lì. Speriamo perché no, ha un cespuglio. Ma no, un po' riccio dai. Selvaggio. No, un troppo. Devi ridimensionare la chioma. A domani per la giornata mondiale dell'ambiente.